regna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì, stretti, stretti, nell'estasi d'amor. La spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Questa notte d'incanto, dolce in Spagna è l'amor. Son la regina del canto, mamma il mio bel toreador. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Sono per tutti la gioia, sono per tutti l'amor. Estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì, stretti, stretti, nell'estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì. Olè!